Q10, c'è qualcuno in ascolto? Ciao Natalino, buonasera. Oh, ciao Gabbino, buonasera, ben sentito, ben entrato. E io stavo facendo un qualcosa per quel dipolo là e ho visto che già funziona, adesso devo solo farlo legare dall'altra parte perché è troppo lungo e qua non c'è posto. Praticamente gli ho ripiegato il contrappeso, ma riceve bene, ho visto che riceve bene adesso anche senza essere legato, mica bene. Quanto è lungo, Natali? Allora, 10 metri da una parte e 10 metri dall'altra dovrebbe essere, capito? E quindi sono 20 metri di dipolo. È un dipolo multibanda però, e gli ho fatto una cassettina con un toroide e quindi dovrebbe accordare da tutte le parti. La puoi fare verticale oppure long wire, questa antenna qua, hai capito? E io ve l'ho fatto long wire con un ballo 9-1, con un ballo 9-1, e l'ho dovuto mettere a un'invertita in punta al traliccio. 30 metri di cavo ho usato 30 metri di cavo. Natalia, ascolta, ma hai mai visto su internet che ci sono quelle lupe magnetiche? Sì, già l'ho visto. È che mi manca il condensatore variabile, se no me l'avrei costruita anche io. Io ce l'ho una di quelle, lo sai. Io ce l'ho una di quelle lì. E ti devo dire che lavora molto bene in 40-80 metri. Quella da 40 euro. Ah, quelle che vendono, stai dicendo? Positivo. Io ce l'ho una, l'ho unificato l'anello, invece di tenere quell'anello fine che mettono loro, io l'ho fatto in rame, in tubo di rame da un centimetro di spessore. Lunghezza dell'antenna è la stessa lunghezza, 2 metri, perché c'è qua il filo 2 metri, ho fatto 2 metri, piegato, uguale. E ti devo dire, Natalia, ha migliorato molto e riceve molto bene, ma riceve 40, 80, 160, riceve tutto, l'ho confrontata anche con la long wire, l'ho confrontata con la verticale per la 27, alla verticale della 27 gli fa 10-0, e la long wire diciamo è più zitta, riceve meglio, un segnale più forti, però quella lì a me mi arrivano, io la collego e mi arrivano 9.20, 9.30, 9.10, non va benissimo. E io purtroppo qua non c'ho posto per poterla mettere, e come faccio? È un macello. Questo dipolo addirittura è basso, però sta ricevendo bene in 40 euro, poco fa ricevendo. E riceve bene, ancora non è piazzato bene. Positivo, no, ma quella la puoi tenere anche dentro casa, non riceve tutto anche da dentro casa, e fuori di capo la metti vicino alla finestra e riceve tutto, perché ha un amplificatorino, mi segui? Sì, la conosco, quella VLA 550, mi pare, una cosa del genere si chiama. Positivo, la X30, X030, I030, EBU, non ho mai trovato niente, non mi ricordo come sia. Poi io, guarda, con questa che sto usando adesso, con quella 27, se voglio farlo anche in 40 litri, perché se voglio farlo, non ci sono problemi. Mi dà SWR 1.1 senza accordatore, è assurda. Gira, me la compro e vedo un po' che applicazione posso fare, dai. Adesso prima sistemo questo dipolo qua, perché mi deve entrare un altro apparecchio che lo stanno revisionando. No, io la tengo perché in caso di esigenza quella ce l'hai, e guarda, sono, questo mi viene 40, 39 euro, 40 euro, ma Natalie, prendila, io ti do un consiglio, prendila perché un confronto guarda, qualità prezzo, poi tu sei una persona che beh, è esperienza in queste cose, quindi già te la sai anche modificare, e se gli cambi cavo dei cambi da discesa e gli fa alcuni accorgimenti che gli ho fatto io, diventa una super antica, guarda, è bella. Ehi, me lo posso immaginare, capi? Me lo posso immaginare, se mi sta dicendo che riceve con quei segnali. Sì, lì togli quel cavo fino fino che ti vendono e gli metti il cavo che ci vuole, poi il loop gli cambi invece di mettere quel fil di ferro che c'è, gli metti tubo di rame, là, di quello per frigoriferi. Sì, basta anche quel rame che usano per i condizionatori, quello da quel rame da 3 ottavi. Se vuoi la puoi fare anche un po' più grande, il loop senza esagerare. Però guarda, io non gli davo 10.000 con l'antenna solare, avevo la 2, cioè mi gioco questi soldi. E invece ti posso dire una cosa, che poi l'ho provata anche sul tetto, riceve benissimo, è molto direttiva, è molto direttiva. Devi trovare un compromesso di direzione, ma guarda, io l'avevo puntata a nord-est e quindi ma riceve anche la 27, fa 0,30, riceve bene anche la 27, logicamente non puoi trasmettere, però in ricezione è bellissima. Ehi, se gli attacchi un accordatore puoi anche trasmettere. Sì, vabbè, io sto dicendo in origine, ma è fatta solo per ricevere, non per trasmettere. Però se attacchi l'accordatore, sì, con l'accordatore io l'ho provata col 3009, l'ho accordata 1-1, niente, cioè senza alcun problema. E mentre la Longwire, questa qua che ho nel, diciamo, nell'ICOM, che ce l'ho fissa nell'antenna 2, questa qua è zitta, questa è zitta, non prende corrente, non prende niente, sembra, guarda, sembra un hi-fi, trovando il corso ieri, sembra un hi-fi, riceve benissimo su tutto, però un po' sordo sulla 27. Posso anche trasmettere, visto l'altro giorno come mi arrivavi qua da me con cui deve essere puntato proprio in favore, diciamo, a voi, mi arrivavi 9:20 qua l'altro giorno, mentre a Sentino non riuscivo ad arrivare, ti rendi conto? C'è stato un break registrato, capi, facciamo venire avanti il break, avanti. Buonasera a tutti, doppio rumo. Buonasera Gianni, ben entrato, c'è Gavino e io per il momento. Mi stavo ascoltando, dai, ho fatto un po' di ascolto e poi sono entrato. Mi stavo sistemando sotto le coperte. Ti rimagineggi, Gizio, guarda, c'è proprio un comodo. Gavino, ti rimagineggi. Ciao Gianni, buonasera e ben sentito, avanti. Sì, Gavi, dai. E così oggi, presto sei tornato? Oggi non ho lavorato. A riposo anche oggi? Sì. Sto aspettando per iniziare il tuo lavoro, però ancora il notaio non si è fatto sentire, quindi non posso iniziare. Vabbè, fai i giorni di figlio, dai. Sì, vabbè, già fa bene, dai, ogni tanto riposarsi. Gavi, frugando e rifrugando nelle mie chincaserie ho trovato un portatile della Intec. E stasera lo voglio provare, c'ho tanto di microfono esterno, col volume, si sente dal microfono, è bellino. E stasera lo voglio provare, a vedere se arrivo da te. Dopo, quando scendo con il cane, me lo porto appresso. Ehi, avvisami, non ci sono problemi. Io l'altro giorno in un garage, ho liberato un garage di un signore che è venuto a mancare, ho trovato due portatili uguali, identici, nuovi, che fanno da 0 a 999. però sono in VHF, cioè boh, non ho capito come funzionano questi portati. Ho messo, avevo comprato le batterie ricaricabili, sì, alla Lidl che ci sei, che c'erano questa settimana, già assurdi, linea d'aria 8 km fa, assurdo. Allora va bene, dai. No, vabbè, io di quelli lì non ne ho mai avuto, no? Non è che ci tenga più in tanto, mi piace la 27 a me, poi ogni tanto faccio ascolto, però questi tipi di apparecchi non li ho mai avuti, dai. Non mi hanno mai entusiasmato molto, anche perché non si possono usare, quindi vabbè, se li trovi una sa cosa. Ma no, quello che c'è è nuovo, l'apparecchio, capito? L'ho usato poche volte, era conservato bene nell'armadio. E oggi stavo cercando degli spinotti e ho aperto questa busta per vedere se li trovavo. E ho trovato, oltre agli spinotti, ho trovato anche questo microfonino che si attacca al portatile della Midland e c'è anche il volume. È positivo, no, io non è che sono entrato, c'è scritto il manuale di istruzioni già, c'è scritto perché ne sono completi i manuali, se sono nuovi, caricatore e tutto quanto, mi mettono in istruzioni che hanno 8 km in campo aperto, 8 km in campo aperto, e niente. Ma riprendi Natalino. E cappa. E io il balum che ho fatto a quel dipolo non è 9-1, è 4-1 quello che ho fatto io col toroide. Ma è uscito bene veramente. Mi ho mandato la foto a Gianni, mi sembra che l'ho mandata, non so se ce l'ha e magari te la puoi girare. Ma hanno fatto anche i complimenti per quel balum. È positivo, sì, beh, ci credo. Ascolta, che toroide ha usato l'Advin, il 200 T2? Sì, il T200 ho usato. È positivo, è quello del 030, quello del 030, va bene. Ma sai dove li ho visti? Però sono magnetici, sono calamite. Quello bisogna prenderlo, magari isolarlo con del teflon, da Bricoman ci sono, dalla stessa grandezza dell'Admin, un pochino più grande, però sono calamizzati, quindi bisogna prendere, magari isolare e provare a farne uno e vedere un po' come risponde. Gabi, aspetta un attimo. Ehi, riprendi Gianni. Stavo cercando quel balon che mi ha mandato, ma non lo trovo un attimino, aspetta. Ma vado un attimo in garage perché qua non trovo il riduttore per le cuffie, perché mi mette in cuffia chi così abbasso il volume. Ehi, dai, sono qua intanto, sto cercando quel balon per mandartelo, ma non riesco a trovare. Ma da quando vi stanno questi qua a palla voi? No, a me no. Gianni. Sì, Natali. Oh, volevo sapere se te l'ha fatto vedere quel bar. No, non sono riuscito a trovarlo, Natali. Non riesco a trovare il tuo nome, è strano, eh. Se lo trovo dopo Gianni lo mando, dai. Allora, aspetta, guardo sul computer io un attimo. Rimandamelo, glielo mando. È una cosa strana, se c'è pure uno, c'è pure l'altro, questo è un casino. Io ti ho trovato e c'è, te l'ho mandato, aspetta un attimo, che te lo rimando da un altro. Mi stanno arrivando, ora. 9:20 mi è arrivato qua adesso quello di Giamma. Perché è chiusa la tua, forse è aperto verso il mare. Ah, te l'ho rimandato. Sardegna al Mike. Io non ho il contatto di Gavino, se no l'avrei mandato a Gavino. Aspetta un attimo. Giraglielo già. Non mi arriva nome. Giraglielo già, Natalino, ne ho contatto. Good morning, my friend, Sardegna al Mike. Good morning, my friend, Sardegna al Mike. Arrivano a Bellarietta dal mare, ragazzi. Arrivo quando una bella arietta dal mare, c'è un bel cavolfiore sopra la Sinara, quello è tempo cattivo, eh? Oh yes, and no, this possible, oh bye, bye, bye, bye! Oh yes, oh it's possible, bye, bye, bye, bye, bye! Ma è lui che te l'ha mandato? Sì, sì, sì, è uguale al mio, è uguale a come l'ho fatto io. Sì, la taglia come l'ho fatto io, uguale identico. Ma la scatola dove l'avete buscata? Da Bricofer. Ah, perfetto. Una voglia. Con tutte le misure ce ne di scatole. L'unica cosa è che devi trovare il balu, il toroide, che qua non si trova, devi prenderlo da internet. A me me l'ha regalato, a me me l'ha regalato un amico, però... Quindi si trova, costa una decina di euro. E qua cosa si trova? Non si trova nulla qua? No, non c'è più nulla già. Non è che l'ha usato, non c'è da nessuna parte. E vabbè, purtroppo usi. Tutto da internet, tutto da Amazon. Arriva dopo due giorni. Io lo so. Qui ho un ordino di pacchi da Amazon. Ogni tanto ne ordino qualche cosa. Vabbè, il mangime per i pappagalli sono lì, lo trovi, a Sassari non ce n'è, è un mangime particolare perché i miei sono dei pappagalli vettarini e mangiano un pastone che li faccio io con questo polverino che mi manda. Sì, capito. No, qua non si trova niente, già, purtroppo qua siamo fuori dal mondo, ma non c'è neanche un negozio più attrezzato, vabbè, non c'è neanche più il santo, però uno come può essere Fusara, come può essere Ennas, qualcosina potrebbe portare, perché beh, uno con l'autocostruzione un po' sempre si passa l'oretta. Ma anche... quella di Fusaro, per dire, gliel'ho detto io che tipo di antenne ordinare, quelle che andavano di più, infatti mi ha detto già le ho fatte tutte fuori, per forza, se tu le ordini già le fai fuori, però devi ordinare quel tipo di antenne che le ho fatte ordinare la Superlem, le ho fatte ordinare la Turbo 2001, le ho fatte ordinare come si chiama la Mini Turbo, insomma le ho fatto ordinare un po' di antenne, me l'ha chiesto a me perché non sapevo cosa ordinare, cioè io non so più cosa sta andando, quindi cosa ordino? Il cliente a volte dà consigli utili anche a tutto il negoziante, al tutto il venditore. Per uno dice, caspita, devo spendere 10 euro e devo darli fuori, ma perché non lo portano qua e si lavora, diciamo che si lavora in Sardegna, si lavora in provincia, non a prendere una voce Amazon, è porca miseria, ma siamo tutti funzionari, non c'è un negozio dove puoi andare e comprare un PL come si deve, un attacco M come si deve, io me l'ho fatto arrivare dalla Messia e Paoloni, l'ho pagato 5 attacchi N, Messia e Paoloni l'ho pagato 25 euro. Lo so, che poi lo sai cosa c'è, io quando vado a comprare da Fusaro a me mi fa sempre lo sconto, la verità ammazza, mi fa sempre lo sconto, gli altri no, ma lei, la figlia, mi fa lo sconto sempre, perché mi conosce, e in più quando tu lavori nella Inter devi pagare le spese di spedizione quasi sempre, se non è che hai fatto la carta su Amazon eccetera e non paghi spedizione, però per il resto poi paghi sempre la spedizione e quindi tra una cosa e l'altra ti viene quanto ti viene a Sassari? Sì, io ho Amazon Prime, diciamo spedizione non ne pago, però caspita è un problema, non devi fare aspettare il corriere, almeno per me, perché abito in campagna e non mi trovano mai, guarda, un casino, ti passa la voglia anche. Te la fa portare a casa di tua madre la roba e poi te la ritiri, se ne viene meglio. E anche mamma adesso abita in campagna. Ma non abita più i miei figli? No, abitano in campagna anche loro, con la Torre Torres. Quindi siamo tutti fuori dal mondo, Va bene, io sono arretrato, sono rimasto di quando stavate via a firme. Sì, no, abita più lì già. abita più. Quindi sarebbe una bella soluzione portare, cioè far portare qualcosa a Sassari, tipo Balu, tipo Torondi, tipo queste cose qua, che Balu un punti per fare dei rifugi, ma non è che devi portare 1000, portane 4-5, no? Tu porti 4-5 e poi se vedi che li vendi fa aspettare il cliente e li riordini. E mai fatti. Però qua non si trova quasi un cavolo, è assurdo qua, non si trova nulla. Poi alla GBC ti devi affarrabba entrare, certo, fare un magazzino, ma il magazzino nostro era tenuto 100 volte meglio, la roba era tutta bella assintata, negli scaffali e cose, lì è tutto cazzo in terra, un casino. Benigio non è scoppiata la bomba, arrivano i pezzi a scala di gioca. Ma lui dentro quegli scatoloni manco sa cosa c'è, non se ne ricorda più. Cosa? Gianni? Ho detto che lui c'ha scatoloni che non ha ancora aperto da un po' di tempo, non si ricorda manco cosa c'è dentro. Sì, ha disordine, più che altro ha disordine, non è che ha questa grandissima, cioè magari è fornito a roba vecchia, chissà. Allora io ho chiamato per comprare una discona, quando stavo cercando la discona ho chiamato per vedere se ne aveva qualcuno, ma dovevo guardare il magazzino, e lo chiamavo, non mi rispondevo, che un giorno ho preso, mi ha risposto, ascolti, ma lo stavo contattando per questa discona, non sto pensando ad altro. Mica che ho bagammi, ma di cosa mi sei famiglietti? No, non ne ho neanche magazzinato, dimmi che non ne ho, non dirmi che non sto pensando ad altro. Cioè, ma se non la devo comprare, allora è proprio giusto andare a comprare in internet, dovete chiudere. Quindi la Natalina, la volta che abbiamo detto che ce la prendevamo su internet, perché stavo prendendo le mie il PMR, poi ce l'abbiamo comprati da Grassi, che li vendevano in coppia, ce li siamo divisi, uno stato davano due alimentatori, due PMR, ce li abbiamo divisi, abbiamo pagato a metà la spesa, abbiamo pagato 3 volte di meno di quello che li vendeva lui. Siamo andati da lui, voleva un sacco di soldi e non te l'ha detto, allora conviene andare su internet, che costano molto meno, costano quasi 30 euro di meno su internet, e lui ha detto andate su internet, non vi fanno né garanzia né nulla, ma che ha detto? La garanzia ce la fanno, ci danno anche lo scontrino, ci danno tutto su internet, allora andate su internet e comprateli su internet. Si comprano su internet, sì, anche le antenne si compreranno su internet, molto che non le portano, non hanno una 5 ottavi disponibile, non hanno niente, perché poi non sono furbi, capito? Allora, cosa succede? Anche loro possono vendere su internet, anche loro possono vendere, ti fai un sito, no? Invece di fare negli anni 70, all'era degli anni 70, ti fai un tuo sito con una vetrina, con diciamo uno shop, ti fai uno shop, e ti prendi, cosa ne so, due antenne di un tipo, due antenne, ma non solo dalla 27, io ti parlo anche di antenne VU, ti parlo di microfoni, ti parlo di assistenza radio, non c'è questo ideale qua, a Cagliari c'è qualcosa, però non è che posso mettere 100 euro di gasolio per scendere a Cagliari a comprarmi un toroide da 10 euro, mi segui già? Quindi ti fai una scorta di qualcosa, ma senza comprare tanti pezzi. Però sanno che in Sardegna, in provincia di Sassari, ci sei tu, che possono contare su di te, che sanno dove sbattersi la faccia. Mi segui? Scusa, c'ho la bassa. Natale ci sei. 5-10? Avanti. Buonasera, ciao Gianni. Ciao Robè. Aspetta, sono disturbato con le altre radio. Nessun altro c'è, solo tu ci sei. No, c'era Gavino e anche Natalino. Gavino ha staccato un attimo perché l'hanno chiamato al telefono. Natalino si è perso, forse sta mangiando, non lo so. Mangiando? Che ore sono? Le 7:25, come gli ospedali mangia? Lui mangia presto perché deve fare l'iniezione, mangia presto, vabbè, guarda che non è sbagliato, non è, se uno mangia presto più al tempo di digerire bene. Assolutamente, sto dicendo soltanto ironia, sto facendo a livello di battuta, ci mancherebbe. C'è sempre un motivo, in ospedale infatti ti fanno mangiare il prezzo, uno dice perché non le fa? Perché poi c'hanno la digestione, la notte digeri, io invece sbaglio tantissimo, io mi curico appena mangiato, è sbagliatissimo, infatti molte volte mangi tardi e poi subito poi a coricarti. La digestione è assolutamente scontento, lo stomaco, dai, tutto un apparato digerente, no, non va assolutamente bene, però molte volte per fretta e per tipo di girare di lavoro, io adesso dopo pranzo per dire 10 minuti, un quarto d'ora mi rilasso, mi sdraio, però subito dopo mangiata non va bene, purtroppo sono abituato così. Poi tu rientri presto al lavoro, quindi un po' di pennichella ci vuole, dai. Siamo noi che sbagliamo in effetti, anche io sono così, mi mangio verso le 9, mi guardo un po' in televisore e poi mi curico. Invece chi mangia presto tutto, diciamo tutto il tempo per fare buona digestione. Io grazie a Dio già digerisco lo stesso, forse perché mi sono abituato così e digerisco ugualmente, non ho mai avuto problemi di digestione, tranne qualche volta che magari mangi pesante o cose del genere, ma di digestione proprio non ho avuto mai problemi. Non lo so, però sicuramente bene non li fa, perché è una cosa che l'organismo è calcolato per stare in piedi e scendere il cibo e tutto l'apparato digerente facendo tutto il giro eccetera eccetera, un'altra cosa quando sei coricato lo sforzi di più, per cui diciamo tutti gli alimenti e le cose hanno un passaggio molto più lento, magari non lo so, poi io non sono medico, però è sconsigliato sempre coricarti subito immediatamente appena mangiato, è meglio sempre magari stare un po' rilassato seduto e qualcuno si fa la passeggiatina, però quello puoi fare l'estate, ma non adesso d'inverno in casa a passeggiare perché va tanto bene, però ti capita l'estate magari se sei in zone di mare, cioè dai, dopo mangiato ci facciamo una passeggiatina magari in qualche posto ombroso, così digerisci meglio e si sta anche meglio, diciamo l'organismo sta meglio. Vediamo se è entrato Gavino, se c'è Natalino o chiunque altro voglia entrare, avanti qua su canale 10. Ehi, ci sono io. Non ci sono riuscito, non si vede più nulla già, ma domani già lo aggancio, comunque riceve ugualmente. Capo, di cosa state parlando? E di un dipolo che ho fatto io, gli ho fatto il balun 4-1 e già riceve. Ma perché banda? Multibanda. Quanti metri è? E quello per fare quell'antenna verticale, però lo puoi fare anche come dipolo, io l'ho fatto come dipolo perché sennò dove me lo metto? Quindi l'hai messa in orizzontale, la filare l'hai messa in orizzontale, non sulla canale a pesca. E un dipolo L, poi c'è il contrapeso ripiegato, ma bello, mi hai fatto bene. È importante, se lo metti in orizzontale devi rispettare anche le altezze perché magari non c'hai riflessione, dai, non funziona come dovrebbe funzionare. E già lo so, è tutto calcolato. No, assolutamente non lo metto in dubbio, dai. Perché è meglio sempre rispettare i parametri, diciamo, fisiologici dell'antenna, tecnici, in modo che riesci a avere il rendimento migliore. Vabbè, naturalmente in ricezione è diverso, in trasmissione magari ti possono salire le stazionarie e cose. Con cosa hai fatto il balum 4-1? Tu Ruidi, cosa hai utilizzato? Un T200 ho usato. Ma c'è un amico, un ingegnere, questo è un mostro di elettronica, un professore di scuola, eccetera. Lui utilizzava il coso dei vecchi televisori a tubo cattolico. Dice, tiri le spine, prendi l'impedenzimetro, misuri, quanto devi fare? 52 ohm, le togli le spine o ne aggiunge qualcuna e normalmente si tolgono perché hanno dei valori molto alti. Dice, non c'ho niente da fare, un toroide già molto, diciamo, di spine, già pronto, tu devi solo toglierne finché non trovi il valore giusto, 52 ohm, prendi, attacchi e vai. E aspetta che te lo mando a vedere e lo vedi, Robè, ecco qua, mi hanno fatto anche i complimenti, mi ha detto che sembra uno di quelli comprati, ma che cosa cazzo l'ho fatto io, mica te l'ho mandato Robè. Ah, ma ha mandato anche Gianni, bello, è fatto bene, quelle scatolette e cose, Sagne, IP65, sto guardando, un bel lavoro, ma l'hai fatto tutto tu, Natale? Sì, sì, i buchi, i fori li ho fatti con quegli affari che hanno tante larghezze, che sembrano quelle punte. Io le avevo viste che ce le aveva Marco Scorpio con quelle lì e me le sono comprate tre misure diverse e fuori le ho fatte con quelle e sono usciti di lusso. Sì, l'ho fatto tutto io. No, bel lavoro, ho fatto assolutamente pulito, ordinato, no? Io dovrei farne uno 6 a 1 per questa antenna nuova che è sbilanciata, perché c'è un braccio uno più lungo e l'altro più corto, 16 metri da una parte mi sembra 5 metri dall'altra, se non mi ricordo, che utilizzerò come cavo, anziché usare la classica cavo elettrico, utilizzo cavo d'acciaio, quello per la saldatrice a filo continuo, da 8 mm, noi forse ce l'abbiamo da 1 mm in officina, che è eterno, li fai direttamente gli occhi, non sta neanche a fare borsetti, saldature, prendi micidiale, c'è un amico radiamato, questo è un grande appassionato, un grande costruttore, li utilizza, mi ha fatto fare la prova con la sua stazione, ha detto questa è l'antenna e questa è un'altra, ma il segnale da 5 a 9 salivano, era una cosa impressionante, la resa di questa antenna, una multibanda, oltre funziona bene, ma voglio fare anche io, perché però il problema è sempre il balumbo, perdere tempo non è un moto di tempo, si fa molte più volte prima andare a comprarlo già pronto, costa 30-40 euro, prendi, vai, sono ermetici, ti attacchi, e trick e ballacchia, come diceva qualche di uno di qua in frequenza. Vai Gianni, sì Gianni, bella l'immagine, perfetta. Ti stavo dicendo, Rubè, adesso io fra un po' scenderò con il cane e ho trovato un portatile in una busta. Cercando degli spinuzzi ho trovato questo portatile, gli ho messo le batterie e lo voglio provare. Quando scendo giù ogni tanto fate una chiamata, dai, ve lo dico io, fra un po' scenderò, dai, fate la chiamata così almeno vediamo un po' se riesco a uscire, dai. Ma che portatile è? Quelli della Intec, male come il mio, ne ha un paio di quelli, l'Endic come cos'è? No, è Intec è un modello diverso, non è Intec. Perché io ne ho due, poi uno l'avevo dato a Torino, avevamo usato scambio, mi ha dato un'antenna, poi ne ho altri due o tre di questi, ne ho addirittura di quelli tre canali, cinque canali, quelli che ci bisognava mettere i quarti, dentro la busta originale in scatola mai usati, che c'era un'antenna telescopica, ce ne ho due o tre di quelli, ma nuovi proprio, mai neanche accesi quelli, forse uno l'ha acceso, sono fiammanti, l'avevo acquistato perché era un'occasione, poi non l'avevo mai trattato, mentre quello Endicom 50S della Intec, che c'ha 40 canali, quello lì ho iniziato con quello, il primo che mi ha ascoltato è stato Luca, con l'antennina sua in gomma, ed è riuscito a sentirmi Luca, poi dopo un mese avevo già le antenne esterne, ho fatto un salto veloce, dai. Riprendi Natalia. Gianni, mandami il contatto di Gabino, mandatoglielai la foto a Gabino. Sì, gliel'ho mandata. Mancata. Perché io il contatto di Gabino non ce l'ho. Okay. Stavamo parlando infatti con Gabino di antenne poco fa. C'è qualcuno che non sta uscendo. Vabbè, io stavo parlando di antenne poco fa con Gabino, adesso come mai si è allontanato? Io non l'ho sentito a Gabino, mi ha detto Gianni che era al telefono. Forse si è allontanato per quello. Gabino è un grande appassionato, ieri ci siamo fatti, ieri e anche altri giorni, delle bellissime chiacchierate, parlando un po' in generale sia di antenne che di altri discorsi, di amplificazioni, di impianti audio e professionali, di cose del genere, lui è lo stesso grande appassionato. E poi una CWL, nel senso con grande passione, mi ha fatto mandare anche le foto sue della sua stazione, bella, poi fa piacere quando poi parli con una persona che ti sa anche rispondere, si parlano di argomenti tecnici, per cui anche ci abbiamo le stesse passioni, parole povere, dai, riprendi Natalia. Roba, sta uscendo con un rumore, così. Guarda adesso. Sempre. Con un rumore. Che strano, ma che non sa questa cosa, aspetta, guarda un po', guarda cosa succede adesso. No, adesso non c'è più. Lo sai che cos'è? Se ve lo dico vi mettete a ridere. Non so se l'avete mai visto su internet, quelle barre display sono fluorescenti che ti danno un ritmo di musica, eccetera. L'avete mai visto le pubblicità? Tipo distorsori? No, no, che sono, sai presente, come descriverti? Un barale elettrico verticale e sono tutti, non i LED, sono delle barre fluorescenti, colorate, tipo indicatori di livello, cioè tipo, sono degli indicatori di livello, puoi sceglierti come picco oppure a seconda della musica. Io lo uso come modulometro, me lo metto vicino, adesso non sapevo che disturbava qua in 27, perché si sentiva, infatti di sottofondo, come sollevo, come parlo, faccia tum tum tum, probabilmente tu sentivi questo coso qua. No, qua faccio così. Probabilmente disturba perché sono dei LED, sono delle barre a LED, non proprio LED, sono fluorescenti, dai. Probabilmente interferisce qua col microfono. Però sanno, non me lo faceva, ieri stavo parlando con Gabino, ma non è forse ieri l'aspetto e non mi ha detto niente, dai. Comunque adesso so che quella roba dà fastidio, infatti ho spento tutto. Eh sì, quella roba disturba, vabbè. Si è presente che a 40 cm dal microfono, io ho tutti i ripiani e l'ho messo per fare scenografia nella radio, quando parlo io oppure quando parlano altri, e questo qua tum tum si muove al ritmo di musica, c'ha diversi colori, diversi programmi, lo puoi fare come picco in modo che ti dice se stai distorcendo, relativamente, perché poi è un giocattolino, però è simpatico, dai. Non so se l'avete mai visto, che si mettono vicino al televisore, vicino alle radio, per fare scenografia, li usano anche tipo discoteca, però più grandi li usano, questi sono piccolini. No, non li ho mai visti io, Robe, non ce l'ho presenti, ma più o meno ho capito come sono. Sono delle barrette verticali, tutte colorate, partono dal bianco fino ad arrivare tutte le tonalità dell'arcobaleno. Io me l'ho impostato che l'ultimo, quando si accendono in alto, diventano rossi, però lo puoi fare, ti scegli i colori che vuoi tu, per dire, lo puoi fare tutto verde, tutto azzurro, oppure altre tonalità, che per dire, fino a un certo punto fa un ritmo e dopo un certo punto cambia completamente il colore. Ci sono 20 modelli, 20 possibilità. Io mi ho fatto il classico come le piastre di registrazione a V-meter normali, come arriva al picco diventa rosso, c'ha la memoria di picco, per cui ti rimane anche come si abbassa, rimane l'ultimo livello alto che ha misurato, rimane bloccato. È carino, dai, scenografico, non è che ci abbia nessuna funzione, più che altro scenografico. Aspetta lì, ce l'ho solo su Messenger, io, Gabino, non riesco a mandartelo, sto cercando di mandartelo ma non riesco a trovare come mandarti. Non trovo le cose, come mandarlo, dai. Sto cercando ma non riesco a trovarlo. Bisogna che mi mandi su WhatsApp il numero di telefono e basta, dopo già ci penso io. Ma Gabino c'era, era al telefono, mi ha detto già, confermi? Sì, l'hanno chiamato al telefono. Cappa. O se no a Gabino gli dai il mio numero di telefono, cioè, e mi aggiunge. E tu già non stai più lavorando? Chi io? Eia. No, io sono in pensione. Non fai niente, dico, come Ubi la radio, fai qualcos'altro? No, ne ho altri di Ubi. C'è pappagalli che parlano, da sistemare ogni mattina, e c'ho altre cose da fare, dai, non è che sto in casa. Non ho capito cosa fai ogni mattina. Sì, un po' di tutto faccio la spesa, vado ad accompagnare la mia compagna al lavoro, vado a riprenderla, cioè tutte queste cose. Ah, no, ho capito, la paga, vado a prendere la paga la mattina. No, la mia compagna. Adesso la prendi l'estrattore, vedi l'estrattore. Ehi, vabbè, la radio è uno dei tanti Ubi, poi te l'ho detto, io c'ho 3-5 pappagalli, e ogni mattina devo pulire tutte le gabbie, liberarli, giocare, se, per me è un Ubi perché a me piacciono. No, assolutamente no, meglio, più ce li hai meglio è. E infatti di Ubi ne avevo parecchi, c'avevo la fotografia come Ubi già da ragazzo, ho sempre fotografato di tutti e di più, poi avevo anche macchine professionali, e poi vabbè, adesso non lo sto più facendo, quello lì, sono tutti Ubi dispendiosi, c'ho l'acquario, che sono dei vissuti, mi piace pescare, però non ci sto andando in questo periodo. Certo, allora è importante uno tenga impegnata la giornata, brutto uno va in pensione e si rimane tutto il giorno in casa seduto nella sedia a guardarsi la televisione e così invecchi, quello che non è invecchiato in 10 anni invecchi in un anno. No, quello no, io esco con il cane, vado a passeggio col cane, trovo gente, no, io già sono sempre impegnato. Certo, vediamo qua su 10 se è rimasto qualcuno che vuole entrare, qualcuno avanti su canale 10. Che avanti, avanti. Oh, ho sentito un effetto tipo extraterrestre, dischi volanti, cos'è? Vabbè dai, io faccio quel RT e devo scendere giù col cane. Ci sentiamo, vabbè, ciao Natalino, ciao a tutti gli altri amici ascoltoni. E ci sentiamo laggiù, dai, se riesco ad arrivare. Prova Maria a chiamare se ti riesco a sentire, ok. No, ho sentito qualcuno con un effetto iu. Non vedi niente arrivato qua. C'è anche molta propagazione. No, questo era un segnale locale, non vedi più venti, non era propagazione. Chi è avanti, poi se c'è uno basso basso. Chi è avanti? Chi è questo? Ma lo senti già? Avanti chi vuole entrare sul canale 10, avanti con la buonasera. Con l'effetto eco pure, il soffio con l'effetto eco, gassi, avanti. Ciao Robert. Ma tu vedi gassi? No. Senti con questo, con un fiattone, con un effetto eco sul fiattone, Com'è la mia radio? Ma chi sei, Tonino? Capo. Tonino, non t'avevo neanche riuscito, che pensavo fosse Gavino, figurati. Prova a parlare. 1, 2, 3, prova di modulazione. Così discreta, non è fortissima, ma comprensibile, dai. Capo. Avrò la batteria un po' scarica. Ma non eri tu allora, lo sentivo un segnale tipo questo, però con una specie di eco sottofondo. No, no. Adesso la modulazione com'è? No, adesso si è sollevata parecchio, già va bene, adesso è buona, sei tu. E capa. Comunque accettiamo come radio, dai. A Vuglia, con che radio, che micro? Un Palmare, SB, quello precompresso. Va benissimo, la radio cos'è? Sempre del Galaxy. Allora, Tony, prova a parlare di nuovo. 1, 2, 3, prova di modulazione. Adesso il segnale è stabile, poco fa sei sceso da 9,20 abbondante a 9,10. Boh, non lo so. Sarà l'antenna che era un po' sporca. Ecco, cioè dei picchi allucinati, parti da 9,10 a oltre 9,20. Boh, vabbè, già va bene, lo stesso, dai. Spero che mi sentite. A Puglia, no, ma mi ha impressionato i picchi, cioè salire da 9,10 a 9,20 così, quando parli è tanto. Ma dico, ma qualcosa sarà buona anche l'antenna, dai. Anche se è un'antenna scalcina, dai, che ho pagato una che fesseria, gà. Ma ti stai aiutando tu, Tony? Io no, io sono liscio proprio con il baracchino. Ma scusatemi, una domanda se vuoi rispondere naturalmente. Abiti sempre nella stessa zona, andando a San Camillo? Sì, ho spostato l'antenna di 4 metri con esattezza. Ma in altezza o di spostamento laterale? Spostamento laterale e di altezza. Ma grande stai andando, Tony, mai arrivato così forte, sì. Meglio così. E sei liscio? Liscio come l'olio. Buon per te, dai, complimenti, no? Stai arrivando molto forte, considerando dove sei. Vabbè, io già sono aperto per quelle direzioni, però stai arrivando fortissimo. La radio più che altro mi interessava, Robè. No, no, ti ascolto bene. Ottima radio e ottimo segnale. Segnale qualche spizzolino lo superi 9,20. La radio comprensibile, pulita, chiara, senza imperfezioni, come si suol dire. Com'è, un po' amplificato almeno, lo è. È già l'ugrede, no, bella pulita. Capa. Anda bene bene, niente, sono entrato poco fa, sono andato a prendere le uova che mi ho dimenticato, volevo farmi i petti di pollo impanati, capito, le fettine, e avevo tutto panegratoggiato, mi mancava proprio le uova. Ciappa, no, io mi ho messo, ho delle pizze surgelate, delle pizzette, ho voglia delle pizzette oggi, dai, e mangio delle pizzette, quelle piccoline surgelate, me le scaldo e sono buone, e io la pizza la mangio, non dico tutti i giorni, ma la mangerei tutti i giorni perché mi piace il trucco. No, tutto il giorno a me non mi piace. Una volta alla settimana me la porta l'amica mia, la pizza, ma a volte con uno e voglio che. Niente, mi fa salire una bella insalata con pomodori e finocchi. No, insalata già le mangio io, dalle carote, le favette, eccetera, eccetera, pomodorini, tutte queste cose mi mangio. Però molte volte, almeno guarda, in casa nostra al minimo 2 volte alla settimana la pizza c'è, anche certe volte anche di più, per dire se poi si organizza qualcosa. Sempre si mangia la pizza, perché per me è come la pasta del pane, è una cosa che mi piace di troppo. Eh beh, c'è chi piace. Niente, no, io con le fettine impanate stavo dicendo, e prima faccio una bella insalata di pomodori e finocchi, un filo di olio d'oliva extravergine e poi un filo di aceto di mele. Aceto di mele? Cappa, non rimane come quello del vino che è un bel forte e pizzica, no, no, rimane molto leggero ed è saporito. Sì, sì, sì, lo conosco, buono. Meno penetrante, dai, meno aspro, perché l'aceto, se ne metti due gocce in più ti rovini il gusto di tutto. È vero, già. Niente, poi a proposito, mi sono comprato un bel po' di trippa, che domani me la faccio al sugo, i fagioli. No, quello te la mangi tutta quanta tu, ne manca vidella, a me è proprio cosa, mamma mia. No, ne ho una voglia. Io mi ricordo che andavo da Massino, quando ero più ragazzo, al monte a prendere la trippa, le favate. Sì, già l'ho conosciuto, da Maghinotti, sai. Cappa. Credo che sia il padrino, mio padrino, il nonno di Tino, può essere. Non te lo so dire questo. So solo che salendo sulla sinistra, gli Marghinotti. Sì, sì, sì, già lui, non ci andava sempre mio suocero a prenderla, prendeva le favrette, tutte queste cose, cucina sassarese, dai, melanzane al forno, eccetera, eccetera. No, era molto conosciuto, cose anche buone, squisite, dai, cucinate anche in modo buono, diciamo, impeccabile, dai, accattivante, dai. No, no, la trippa a me quelle cose, cordura, la trippa, la sabbia, a parte io che carne non ne mangio, mi posso mangiare qualche fettina leggera di fettina di pollo impanata, pollo arrosto, salsiccione fatto come dico io, ma carne in generale non la mangio, io mangio un bel di pesce. No, il pesce qualche volta già lo prendo anch'io, l'ho ratta, farla in forno o a cartuccio. Niente, poi sì, che non vado andato, mi ricordo bene, sono più andato, poi sono passati gli anni da Mastino, e quindi Martino, ma scavo si chiama. E il fattore era un bar e poi dove entrava una sala interna. Mi ricordo che c'erano quei banconi in legno antichi, lunghi e la tavolata lunga. Sì, i classici, diciamo, osterie sassaresi, dai, di cucina sassarese, c'era un centro studio, c'erano diverse, c'era quello, non so se ti ricordi, in via Turritana all'inizio, che vendeva anche roba di mare, polpi, le seppiette, ti facevi i panini, non so se te lo ricordi. Cappa, scendendo sulla destra, dai, facevo dei panini che erano fenomenali. Cappa, scusa un attimino che è arrivata mia figlia, scusa. Cappa. Chi si sta lamentando? Si è sentito una propagazione. C'è questo, ohia. Ohia. Poi non so se sei andato a mangiare la sassarese proprio giù via Madrenedda, poi via Santa Elisabetta, che c'erano questi due tipi, due amici molto stretti, avevano aperto questa tipo taverna, che non solo che cucinavano bene, poi facevano battute, peggio dei sussicchi, ma troppo doghi. Ma c'era anche quell'altra, come era quella via? Come si chiama? Vicino alla traversa dove c'è il rosario, c'è la Furica, così è. Dove? La via, come si chiama? Dove c'è la chiesa del Rosario, a Grattacielo, c'è quella viuzza che è poi del centro storico, che fiancheggia la chiesa, dove c'erano i bagni pubblici. Sì, sono andato anche là con Roberto Moss. Lui le conosceva tutti queste buche qua. C'era via Arborea, Vico, poi via Munizioni Vecchia. Via Arborea, mi pare quella via. Sì, sì, sì. Lui ogni giorno mi portava quando avevamo quelle 15 minuti di pausa, io andavo a mangiare una cosa, già che eravamo in zona sempre. Ho detto tutti tu li conosci i posti. Ma poi non so se sei andato, io sono andato di recente, non dico recente. Scusa, il telefono è andato. E io. Hola, hola. Avanti. Natalino, ci sei? Oh, Tony, ci sei ancora? Torino. Gianni, ci sei? Allora controllino del radio, per favore, Luca, sono. stavo trovando un baracchinetto qua. E praticamente questo è il gemello del Texas. La Fayette Texas, te lo ricordi? Però se aumenta il Nesca, vado a vedere che sto. Vedi? E è sempre stato così questo apparecchio. Devo abbassare da qui, boh. Guarda così che è aumentato il mic gain, ma sto abbassando dal microfono. Lo faccio così, allora aspetta la modifica del microfono. Guarda così cosa è cambiato, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qual è meglio? Questo è un passaggio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo è un altro passaggio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, già cambia, vabbè, forse buco. Cappa Roger, allora lo faccio così, va bene? Cappa, grazie a tutti. Ma basso siano tutti, sì, c'erano prima. Vabbè, adesso metto a posto qua. Oh, ragazza, è un casino, beh. Sì, ok, poi quando vuoi fare quel lavoro là, fammi sapere. Ricordati che dobbiamo fare prima il lavoro di quella staffa. Che capo? Mi pare che andrà già a livello 20 metri. 3, 3, 6, 9, 12, secondo me sì. Fino ai 30. Ehi, ciao a tutti.